A Filippo Turati, Milano, 27 maggio 1901, ore 5:30 pomeriggio. Come vuoi, caro mio tesoro, che non sia contenta di te? Hai fatta la corte, sebbene affrettata, ma sarà stata bella ugualmente, alle mie donnette. Hai prestato cure paterne ai miei pargoletti e per giunta ti sei ricordato delle telegrafiste maritate. Insomma, sei un prodigio. Nel mio bilancio del lavoro non ho da mettere una millesima parte, eppure non sono stata un'ora a far niente. Chiacchiere, noie, seccature, pacchi, registrazioni, scioperi e via di seguito. Ma sono contenta lo stesso, mi pare come se facessi tutto per il mio povero Vegin. E sono contenta. Farei delle cose anche più noiose. Basta che tu fossi più tranquillo e facessi delle cose più confacenti col tuo ingegno e la tua scrupolosità. Povero mio tesoro. Ma sai che è ora di tornare a casa? Non vedo l'ora che tu torni. È triste la vecchiaia, ma quando si vuol bene anche l'inverno non dà molestia. Sorprendo me stessa di un fatto che mi fa spesso sorridere. Mai ebbi in te tanta fede, tanta ammirazione per quel che sai fare, tanta devozione per te. Divento rimbambita, oppure ti voglio più bene di tutti i 17 anni trascorsi. Qualunque cosa fosse, involuzione senile. Oppure un ultimo fiore sbocciato in autunno, il fatto sta che queste sensazioni mi rendono così contenta come non lo fui mai nella vita. E allora che devo morire? Chi lo sa? A Filippo Turati, Milano, 31 gennaio 1904, ore 18. Mio carissimo, non ho nulla che possa confortarti. Sono su per giù nelle tue condizioni d'animo. Se non si crede più a quello che si fa e se non si fosse più capaci di trovare il punto di equilibrio per vivere almeno un po' soddisfatti, sì, è vero, il meglio che si possa fare è di far calare il sipario. La mia gran preoccupazione è di non spegnere i lumi, dannata e idrofoba. Vorrei che la commedia finisse in piena luce, col sorriso sulle labbra, con la benevolenza nell'animo, con l'augurio che altri dopo di noi sappiano fare qualche cosa e siano più preparati alle nuove esigenze della vita più progredita. Noi siamo come certi organismi inferiori, dopo aver fecondato e seminato idee che rivoluzionavano masse e cervelli, ci sentiamo morti. Tutto ciò però è un po' colpa nostra. Te ne parlai già tante volte e sono pronta di parlartene altrettanto per persuaderti che non va che una via. Lasciare alla demagogia il passo e prepararsi per un lavoro politico sul serio, scomparendo magari dalla vita stupida, inconcludente e snervante del momento storico attuale. Se tu fossi capace di farlo, potrei essere ancora confortata di morire serena e contenta. Avrai la forza, avrai il coraggio di denunziare per un certo tempo agli ossequi del mondo? Non lo so. Tutto è da vedere che cosa è più forte in te. L'ambizione di diventare un uomo politico veramente forte. E non per le moine melliflue di cui ti gratificano gli avversari, oppure prevale la solita più o meno larvata vanità degli uomini che si sentono già potenti e domani potrebbero esserlo di più. Ma che potenza mai è questa? Avrei tante cose da dirti in proposito, ma temo di annoiarti. Quando vorrai ne riparleremo, ma soprattutto mi raccomando di non isolarti e vai a pranzo in compagnia. Addio, mio caro, vogliami bene e tanto. Forse ci sorriderà anche il resto. Ti bacio, Anna. A Filippo Turati, Milano, 17 marzo 1904, ore 17. Mio carissimo, il sole se n'è andato. Il tuo arrivo è rinviato ad un'altra decina di giorni e non c'è niente da fare. Si vede che la solitudine di Roma agisce su di te un po' come il carcere. Diventi troppo sentimentale. La maternità non solo non mi commosse, ma la trovai artificiosa e qualche volta goffa nella sua montatura. Le invocazioni frequenti all'eguaglianza degli uomini, perché tutti veniamo dal grembo squarciato della madre, sono brutte come immagini, false come concezione morale. Ci sono qua e là, nell'ultima parte, qualche strofa commovente, ma in complesso mi parve un'opera d'arte fallita ed una traduzione in strofe della prosa dell'Unione Femminile. A noi qui piacque poco quel tentativo di femminismo poetico. Tanto che Treves non ne volle sapere d'un articolo laudativo del Crespino. Anche Bonomi, che gusta la poesia, rimase freddo alla lettura dell'apoteosi della maternità. Se però a te piace tanto, ritornerò a rileggerla quando mi porterai il volume. Hai visto oggi l'articolo del Treves contro il voto segreto alla Camera? È scritto bene, è logico e convincente. Non so soltanto se in realtà poi la segretezza non sia anche una correzione a che non entrino in vigore leggi malfatte. Il Treves traversa di nuovo, mi pare, almeno una crisi di ribellione. Per fare il giornalista rettelato, la ragionevolezza tarpa le ali e lui di quando in quando ha bisogno di spaziarne in alto e come poeta rifugiarsi nella bellezza delle immagini di un popolo ribelle. Treves non diventerà mai uomo politico né giornalista politico, ma rimarrà sempre nel limbo dell'idealismo fra il sogno e la realtà. Ieri sera egli volle ad ogni costo condurmi alla figlia di Iorio e ti giuro che mai più avrei immaginato che un uomo alla sua età possa godere in un modo così squisito la bellezza del verso, la trovata di certe parole, la raffinatezza delle immagini, la fantasia poetica di un umore wagneriano. I suoi articoli sono dunque bellissimi, ma non esigere da lui di essere l'interprete del riformismo. Mio caro, avresti fatto veramente bene se tu ti fossi preparato per parlare sul sistema carcerario. È una cosa doverosa da parte tua, d'ottenere dei cambiamenti nel trattamento morale e materiale dei detenuti. Siamo ancora al periodo barbaro della vendetta sociale contro infelici che offesero i diritti di singoli cittadini. La modernità consiste nel togliere a tutti i regolamenti carcerari e dei riformatori precisamente questo spirito di vendetta. La società, come costituita, ha diritto di difendersi, ma non ha nessun diritto di condannare ad una morte lenta per tortura e per fame. Avrei tanto piacere se tu te ne occupassi ora della questione, non avendo nessun genere di lavoro urgente da fare. Sai, Filippone, che Tecchio ti ha terribilmente tradito, mentre la signora Giovanna è parlante. Tu sembri un usuraio arcigno e non c'è neppure un tratto che richiami alla memoria il povero Veillon, che non è bello, è vero, ma è un gran simpaticone. Mio Filippo, vorrei raccontarti di tutte le mie agitazioni e delle notti insonne di quasi 3 settimane, ma te le dirò a voce. Oramai mi pare posso dormire tranquilla perché le cose per l'avvenire della ninetta pare s'avviano bene, sebbene fino ad oggi ne avevo dei dubbi. Il giovine è il Gavazzi, che tu vedevi durante 2 anni in casa, quando studiava con la Ninetta nella seconda e terza liceo. Egli si innamorò allora e rimase fedele. Ora ha 24 anni, è dottore in chimica ed ha una sua azienda con un brevetto di invenzione propria. Lavora con slancio e tenacia, malgrado i milioni del padre. Ora la questione fu la sua famiglia, ma egli era deciso che se non davano il consenso si sposava lo stesso. Ieri fu una lunga conversazione con i genitori che gli dissero che la Tusa, sempre scelta da lui, deve essere una brava ragazza, che loro la tratteranno come gli altri figli che escono fuori di casa, che ha ammogliato la famiglia sua, sarà parte della famiglia loro, ma per il mondo, per i loro conservatori, per i loro preti, per la perseveranza, il matrimonio lo fa lui di sua volontà, senza far loro partecipazione. Figurati se potevano essere più buoni e più intelligenti. Stamattina la madre andò col ragazzo a scegliere l'anello di fidanzamento ed oggi è avvenuto il primo sposalizio simbolico col primo anello della catena coniugale. È un ragazzo buono, allegro, simpatico, ma soprattutto quel che mi rallegra è che è innamorato e lavora. Il giorno che la Ninetta non sarà più il mio rimorso continuo, mi pare che comincerò ad avere anch'io un po' di pace. E poi morirò tranquilla, senza lasciare dietro a me lacrime e dolori. E noi due vecchietti diventeremo di nuovo giovani. Ho già dei bei progetti, vedrai. Ciao, mio carissimo. Vogliami bene. Sono stanca e forse per questo un po' malinconica. Anna. Ad Andrea Costa, Milano, 27 marzo 1904. Mio caro Andreino, sì, hai ragione. È una gran malinconia di dover convincersi che noi non siamo i nostri figli e che essi vogliono fare la loro vita, astrazione fatta dai genitori, come l'abbiamo fatta noi ai nostri tempi. La malinconia non proviene da quel piccolo incidente di matrimonio religioso, ma dal fatto che la nostra figlia non ha né l'animo ribelle né il temperamento di combattività. È una povera bambina buona, gentile, abbastanza intelligente, affettuosa, creata per la famiglia e per avere figli propri. Essa non fu mai socialista né miscredente. Nel 98 fece voto alla Madonna perché io non fossi condannata. La Madonna non l'ascoltò, allora pregava un Dio astratto. Per essa dunque non c'era né tradimento alla propria coscienza, né dovere di coerenza che combatte sulla breccia per un ideale lontano in contrasto con la società. Un pensiero la tormentava: perché vuol molto bene a me? Che io avrei potuto soffrire se avesse fatto il matrimonio religioso? E bada, Andrea, io non sapeva che si fosse già passata parola fra loro due. Non credevo lontanamente possibile un matrimonio di questo genere, non per causa della ragazza, ma per la sfortuna che le portava io d'esserle madre, reproba e reietta dalla gente per bene. Ebbene, una sera se ne parlò del matrimonio religioso ed io, perché essa non abbia nessuna amarezza da parte mia, le dissi che per parte mia odio tutte le conformità del matrimonio, ma in verità mi ripugna più l'atto commerciale del matrimonio civile, poiché nel matrimonio religioso, per un momento almeno, si ha la sensazione poetica della fusione delle anime. D'altronde Andrina ha 22 anni e certo come abbiamo fatto anche noi, alla fine anche con dolore avrebbe potuto fare a meno del nostro consenso. Non si è fatto nessun genere di dedizione e di umiliazione. Allora si potrebbe dire anche viceversa, avendo il figlio affrontato tutti i fulmini del parentorio più nero del conservatorismo milanese. D'altronde come buoni e convinti socialisti dobbiamo rispettare anche la volontà e l'individualità dei nostri figli. Sotto questo rapporto non ho nulla da rimproverarmi ed ho la coscienza tranquilla di essermi comportata come onestamente e sinceramente sento il dovere della maternità. È stato un fallimento, come dici tu, ma un fallimento non doloso, poiché se la Ninetta non è l'immagine nostra, è pure una brava e buona ragazza. Io sono stata angosciata per molti anni. Io capiva che la povera Ninetta scontava gli slanci generosi della sua madre. Io sapeva che un giovane di famiglia borghese, dati i pregiudizi sociali, familiari e religiosi, difficilmente, se non molto innamorato, la sposerebbe per le presunte colpe della madre, che schiaffeggiava la società sotto tutti i rapporti. Ora, questo incubo fu frequente causa del pormi serenamente a questo problema, se non fossi più onesto da parte mia, per la felicità di Ninetta, a sopprimermi. E lo stato d'animo mio era tale che solo una ragione, che mi disse Filippo, mi tratteneva nel commettere una grossa sciocchezza e fu che intanto lasciavo la Ninetta sola. Se la Ninetta fosse minacciata da una disgrazia, se l'uomo da lei prescelto fosse indegno, allora per la sua salvezza, per il suo bene, si può anche violare le norme di libertà di coscienza e di azione. Ma se va incontro alla sua felicità, sia pur benedetta anche dal prete. Se sono contenta ugualmente. T'abbraccio di cuore, non volermi male, sono meno peggio di quel che mi credi. Anna. A Filippo Turati, Milano, 28 maggio 1905, dopo mezzodì. Mio carissimo, che peccato che non ci sei a godere la mia contentezza quasi infantile di sentirmi una persona quasi normale. Oggi sono in piena festa. Mi sono vestita da signora che andrà a passeggio. Non torno più a letto dopo aver fatto toilette e mai come adesso ho provato la gioia di vivere senza fare uno sforzo faticoso di procurarmela. Mi dispiace che non c'è qui il mio povero Vigin caro, ma speriamo che questo stato d'animo sia di lunga durata e che potrò darti un po' più di soddisfazione. Povero mio Filippin, come vorrei vederti contento. Oggi abbiamo qui il frastuono di non so quante bande. La piazza del Duomo è un vero pandemonio, il turismo in tutto il suo splendore. La sfilata di giovani ciclisti, forti, agili, di bambine cavalcioni di biciclette, comportamento fiero, che sembrano dominare l'universo della piccola altezza dei loro arnesi, la folla che applaude, si diverte, tutto insieme offre un colpo d'occhio bellissimo. Il sole inonda la piazza di una luce primaverile e non disturba affatto né per il caldo né per eccessivo bagliore. Come vedi, festa di fuori, festa di dentro. E non manchi che tu, per procurarti un sorriso ironico sulla puerilità dei miei punti esclamativi ammirativi. E tu, che cosa fai? A quest'ora sei al ragno e chiacchieri con Villa ed altri sulle elezioni convalidate, bocciate, eccetera, eccetera. Ti bacio teneramente, Anna. A Filippo Turati. Milano, 10 dicembre 1906, ore 13. Vorrei averti vicino per buttarti le braccia al collo e baciarti lungamente e farti sentire tutta la mia gratitudine per le ore deliziose procuratemi dal tuo magnifico discorso. E dico le ore perché lo rilessi due volte con un godimento squisito, intellettuale e artistico. Com'è stupida la Stefani. Non ha dato neppure la regolare forma scheletrica dell'organico discorso. È meritevole di un processo per diffamazione. Caro mio tesoro, sei proprio bravo. Osservando la vita reale quando si ha ingegno, si arriva a sintesi sociali, intuiti quasi da artista, che colpiscono molto di più nella loro grandezza e semplicità, quanto non si otterrebbe certo sgobbando al tavolino sui trattati e sulle minuzie. Io lo darei nella critica nella sua prima parte, dove tratta del personale. Forse si collegherà anche con l'articolo di Carrara sull'organizzazione che ti mando oggi stesso. Così riescirebbe più chiaro anche l'articolo dell'ultimo numero della critica e poi vorrei procurare a tutti i nostri abbonati un vero godimento intellettuale. Hai abolito il gergo socialista, ma viceversa la parte dell'esercizio di Stato nei servizi pubblici e la cooperazione diretta del personale per il suo buon funzionamento è tutta penetrata dello spirito, dell'anima e del pensiero socialista. Ed è qui la gran arte, vera arte, non abilità parlamentare. Come forse potrebbe sembrare a qualcuno. Ormai mi credo invecchiata tanto da non poter più provare l'entusiasmo e l'ammirazione, e sono felice che sei proprio tu e nessuno e nient'altro che tu, che puoi ancora far vibrare certe corde dell'anima mia che mi parevano ormai spezzate. Non sorridere, ti prego. Se ti ripeto ancora tutta la mia gratitudine, la più tenera vibrante di commozione per la gran gioia che provai e provo pensando al tuo breve, organico, pensato e sentito discorso. Chi mai ti disse che tu non sia convinto del contenuto del tuo discorso? Certo, qualcuno che ti conosce ben poco. La tua zingara che ti legge nell'animo ebbe questa grata sorpresa di sentire nelle tue parole una convinzione che la tua intelligenza troppo critica raramente ti concede di avere. Pensa a me. Anna. A Filippo Turati, Milano, 9 febbraio 1907, ore 18. Caro mio Veggion, sento una tale rivolta nell'animo mio contro tante bassezze che vorrei che lo potessi schiaffeggiare tutta questa gente per bene così crudele e così malvagia. Che abbia il coraggio il Parlamento in nome della morale, impedire ad una madre il lavoro per mantenere suo figlio. Ma allora faccia altrettanto per i professori che hanno figli naturali. Tutta questa gente così morale non ha certo mai pensato sul perché delle due morali diverse secondo il sesso. Certo che finché le donne non potevano provvedere alla prole senza padre, questa rimaneva a carico della società, a danno quindi della collettività, e quindi una vera immoralità di scaricare le proprie responsabilità a peso e danni di altri. L'uomo, riconosciuto il figlio naturale, era anche nella possibilità di mantenerlo. Il figlio aveva un appoggio e poteva non più popolare i brefotrofi ed essere futuro candidato alla delinquenza e alla degenerazione, elementi dissolventi il consorzio sociale. La morale in fondo è tutta lì. Fu buona cosa per preservare la società di troppi pesi e di troppi pericoli, finché la donna non poteva e non sapeva provvedere a sé o al suo figlio. Comincia ad essere una vera atrocità, e contro la donna e contro i figli naturali da lei riconosciuti, il giorno che in nome di quella morale la si vuole condannare alla fame, ottenendo in ultima analisi precisamente un risultato opposto allo stesso spirito per cui sorse, la legge naturale della morale primitiva, assunta poi da tutte le religioni e condannata da tutte le leggi. Fatta astrazione della Terruzzi, la questione è da sé così grave, palpitante e urgente che vale proprio la pena di elevarla a una gran questione di indole sociale, economica e morale. Non so se verrà in discussione la tua interrogazione e mi dispiacerebbe moltissimo se fosse sepolta per qualche accomodamento. Ti bacio e ti abbraccio tanto, Anna. A Filippo Turati, Milano, 23 maggio 1908, ore 17. Mio caro tesoro, non posso che compiangerti, ciò che del resto è una magra consolazione. Ti dissi già ieri che non voglio fare recriminazioni, ma certo è che la tua vita è un incubo continuo e non spero che in un ravvedimento per stanchezza o per disgusto. La povera ragione è impotente dinanzi a certe pieghe del carattere che non si spianano che col peso di una lunga e noiosa esperienza. Mi auguro e auguro soprattutto a te, perché ciò avvenga il più presto. Avrei da sciorinarti tutta una sfilza di ragioni per dimostrarti quanto sei colpevole di sciupare la tua intelligenza, il tuo ingegno, nella filantropia politica, nel burocratismo sterile e snervante. Ma acqua in bocca, questa è la mia consegna, e non decampo dall'impegno preso con me stessa. Oh mio caro, non parlarmi dell'abbandono della vita politica. Ciò mi fa l'effetto della psicologia dell'infelice ciffariello che ammazza la moglie per troppo amore. L'amore non è una pazzia, come non è passione violenta, così la politica non è facchinaggio né un servizio a tutto il mondo. Non sai immaginarti più lungi dal proscenio parlamentare. Gli uomini politici in vista sono un po' come gli artisti da teatro, privateli degli applausi, dell'inebriamento della recita, dell'ammirazione del pubblico e sono morti. O rimangono annoiati e spostati per tutto il resto della loro vita. Per carità, caro mio fio, non pensare a rimedi radicali. Da buon riformista, cerca di riformare un po' anche la tua vita e non avrai bisogno di ricorrere ai mezzi estremi. Tanto più, se penso qual è la ragione delle tue progettate rinunzie, mi sento avvilita e ben mortificata. Non per le mie colpe, ma per la meschinità della causa determinante. Poveretto, come devi essere seccato. Mille baci, Anna. A Filippo Turati, Milano, 13 marzo 1910, ore 17. Ti scrissi che sarei intervenuta nella discussione sul suffragio universale, aspettandovi al varco intorno al voto alle donne. Ne parlai con Treves ed egli lo crede inutile, perché sarebbe un duplicato del voto maschile. Ciò che egli affermò già ripetutamente anche nel tempo. Ora sarebbe veramente stupefacente che un partito socialista faccia le vostre restrizioni. So benissimo che la Camera lascerà passare non poca acqua sotto i ponti prima di concedere il voto alle donne e agli analfabeti, ma appunto, trattandosi di agitazione e di propaganda, non si capisce perché proprio i socialisti abbiano da escludere dall'agitazione un elemento così efficace come l'entusiasmo femminile. E che dovunque ha contribuito meravigliosamente alla conquista del voto per gli uomini, pur rinunziando all'ultimo momento di insistere sul voto al proprio sesso, per non compromettere almeno il suffragio allargato, che a torto chiamano universale ai soli maschi. Si intende che parlo delle donne lavoratrici e non delle dame e delle professioniste, che si contenderebbero anche del voto alle sole diplomate e censite, senza aver grande entusiasmo per il voto agli analfabeti. Insomma, io aspetto le vostre decisioni. Non ho da intervenire prima con i miei consigli, né richiesti né desiderati da nessuno. Io mi porterei la questione al prossimo congresso, sicurissima di spuntarla, come lo feci già col progetto sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Ti bacio di tutto cuore, Anna. A Filippo Turati, Milano, 4 maggio 1910, ore 17. Mio carissimo, di politica è meglio non parlarne. Vediamo e sentiamo così diversamente l'attuale momento politico che difficilmente potremo intenderci. Scommetterei però uno contro mille che fra non poco, se non vorrete passare all'altra riva, dovrete cambiare rotta. Se io sono pessimista e apocalittica, voi siete ingenuamente ottimisti e molto ecclesiastici. Somigliate alquanto all'umoristico personaggio voltairiano, per il quale tutto andava per il meglio nel migliore dei mondi. Poveri voi, che non vi accorgete neppure del vostro appiattimento, facendovi forti di quel gran carattere, grande politico qual è il Cabrini. Del resto avesse Gigione promesso anche mari e monti, ciò che in realtà non c'è, leggendo il suo discorso pare che pigli tutti in giro, voi come clericali, moderati come liberali. Non si capisce davvero un voto di fiducia del Partito Socialista, senza che vi fosse obbligato da circostanze straordinarie. In ogni modo, cosa fatta, capo A, sebbene me rimanga acefala. Oggi sono venuti da me due socialisti della sezione milanese che conosco di vista, ma non so come si chiamino, per farmi vedere una circolare appello firmata da molti con a capo la Briola, la quale invita a costituire un partito socialista rivoluzionario in opposizione al partito socialista ufficiale, dimentico delle sue origini e dei principi socialisti. Parve una cosa fatta apposta per darmi ragione molto prima di quel che avrei immaginato. Qui tutti sono stupiti della vostra politica. Ti prego, Filippin, se farai l'articolo di fondo in difesa della vostra politica, lo firmerai col tuo nome. La firma critica sociale fu sempre considerata, almeno da quei pochi che ci conoscono, come firma solidale nostra. Ora non è più solidale e quindi è giusto che sia firmato solo da te. T'abbraccio di cuore, Anna. A Filippo Turati, Milano, 2 marzo 1911, ore 18. Mio carissimo, la politica non ha nulla di interessante, i pettegolezzi parlamentari nei corridoi li saprai più di me. I rimpasti di gabinetto che vengono pasticciati nella farmacia saranno giunti anche al tuo orecchio. Il gran avvenimento del ritorno di Giolitti per puntellare Gigione è ancora sempre la stessa commedia che durerà senza dubbio tutto il 911. È ben ridicolo di parlare di divorzio, di riconoscimento di paternità, su annunciazioni generiche di principi generali. Bisogna poi vedere in concreto di quante eccezioni, limitazioni e difficoltà sarebbero impastati quei progetti di legge e come in realtà non potrebbero venire in sollievo che nei casi eccezionalmente dolorosi, mentre non risolverebbero affatto le dolorose e tristi condizioni di molte famiglie legate alla catena coniugale, oppure delle donne abbandonate dagli uomini con figli, da essi non riconosciuti. In tesi generale, tutte queste leggi che regolano la famiglia non riguardano che un ristretto numero di donne delle classi più o meno privilegiate. Per la maggioranza delle donne che lavora, la questione del divorzio è, fin il riconoscimento della paternità, un valore molto e molto limitato. Non trattandosi né di date né di eredità né di possibilità di garantire da parte dei salariati un contributo per il mantenimento dei figli abbandonati, per le donne lavoratrici basterebbe che il loro lavoro fosse meno svalutato, che potessero mantenere i loro figli con un lavoro egualmente retribuito, che la società non le mettesse al bando perché hanno figli senza la benedizione del prete o senza il contratto commerciale del matrimonio civile. E questo spiega appunto perché noi socialisti, per quanto si possa riconoscere un certo merito a questo genere di riforme, come un primo colpo ai pregiudizi storici, religiosi e sociali, su cui posa l'istituto della famiglia, non ci siamo mai occupati sul serio né del divorzio né di tante altre riforme inerenti alla trasformazione dell'ente famiglia, che si trasforma da sé con la partecipazione della donna al lavoro fuori di casa e dalla sua educazione mercé il lavoro ad una dignità superiore di voler bastare a se stessa. E non chiedere all'uomo, se ebbe un figlio, l'aiuto umiliante con una paternità ricercata e riconosciuta per legge. Ti bacio tanto, Anna. A Filippo Turati, Milano, 4 maggio 1912, ore 18. Mio carissimo, ti sei riposato? Cominci ad acclimatarti nell'ambiente della camera? Ma che squallore intorno a quel povero suffragio universale. Pareva una rivoluzione e viceversa si è convertito in un'accademia di improvvisa conversazione universale. E fu pietosa quella discussione sonnolente e grigia. Ciascuno è il più bravo di tutti, o perché vecchio partigiano della riforma o perché recentemente convertito. Ma quel che è veramente ridicolo è che tutti, come se fossero toccati dalla grazia divina, sono diventati tanto convinti delle necessità di estendere il voto anche alle donne. E non è una vera ipocrisia, perché neppure uno, neppure lo stesso Lucifero, si diede la pena di difendere questo diritto delle donne. Ciò che dimostra quanto sincere sono le dichiarazioni che tutti fanno a gara di annunziare, come una semplice affermazione generica senza lo svolgimento e la dimostrazione richieste dalla natura stessa dell'argomento. Spero che almeno tu o Trevesso sterrete un po' meglio la questione, portando come formale proposta il voto amministrativo a tutte le donne, chiedendo sul vostro ordine del giorno l'appello nominale, per vedere quanti di quei femministi improvvisati si squaglierebbero o voterebbero contro. Come mi rincresce di non averti munito della relazione Buosson alla Camera francese sul voto alle donne, come pure di quello della Zimmern, sebbene non abbia gran interesse. Del resto, il libro di Buisson, Les Voix des Femmes, egli fu presidente della Commissione del Suffragio Universale, lo troverai certo in biblioteca della Camera. Ciao, caro amico mio. Stai di buon animo. Arrivederci presto. Mille, mille baci. Tua Anna. A Filippo Turati, Milano, 25 novembre 1913, ore 18. Mio carissimo. Forse questo salutino inatteso sarà la cosa meno ingrata della giornata di domani. Fra la stanchezza, la seduta solenne e forse sonnifera dei poteri riuniti, la malinconia di entrare nel 57° anno, immagino che sarai, se non più, forse altrettanto tetro quanto oggi. E già che in questo momento non oso neppure di guardarti, mi rifugo nel pensiero di esserti vicina domani e dirti tutto ciò che negli anni, nella lunghissima convivenza, le molte amarezze ebbero la forza di attenuare. Caro mio Veggiotti, tutti i miei perdenti voti sono perché tu abbia di mutare, non del tutto, ma almeno un po' la vita che hai fatto fino ad ora. Quel facchinaggio continuo che esaurisce i nervi, affatica oltre ogni misura, ti rende malcontento di te e della vita, è la vera, l'unica ragione che mi fa soffrire. Se mi vuoi ancora un po' di bene, Pensa che gioia sarebbe per me e per noi di vederti meno stanco, meno affannato, più soddisfatto di quel che potresti fare. Non ho che questo dolore nella ultima parte della mia vita. Sarei veramente una persona felice se non avessi l'acuto dolore di vederti così affranto, così malcontento e così spesso esaurito di nervi e di forze. Caro mio Filippone, pensa che siamo vicini alla sessantina ed abbia pietà di te. Ti bacio con tutta l'anima e con infinita tenerezza. Vogliati un po' di bene e mi daresti la migliore prova di volermene un po' anche a me. Non ti telegraferò domani, ma il mio pensiero e l'animo mio sono con te, tua Anna. A Filippo Turati, Milano, 21 settembre 1914, ore 18:30. Mio carissimo, a Roma non avevo previsto che saresti piombato in mezzo alle manifestazioni guerraiole. Leggendo stamattina che vi parteciparono una decina di migliaia di persone, mi sentivo morire. Mi pare di sentire che si va montando anche questa guerra patriottica e forse ci entri anche lo zampino del governo. In molte città maggiori si ebbero ieri manifestazioni analoghe a quelle di Roma e dicono che i preparativi militari sono febbrili e generali. Che rabbia che fa in questi momenti l'impotenza dei socialisti. Eppure forse ancora, sebbene più onesto e leale di confessare questa debolezza, anziché lanciare minacce in forma di ordini del giorno che annunciano la resistenza alla mobilitazione con tutti i mezzi, per non far poi nulla o peggio ancora spingere in qualche luogo ad azioni che aggiungeranno nuove vittime a tanta gioventù già sacrata al macello. Chissà come ve la caverete. Notizie della guerra in apparenza stazionarie, ma si prepara evidentemente il gran colpo dell'accerchiamento a nord della destra germanica. Se così fosse, almeno si potrebbe intravedere una prossima fine, ciò che risparmierebbe forse anche l'intervento dell'Italia. Mille baci, tua Anna. Milano, 10 dicembre 1915, ore 15. Mio carissimo, oggi sono meno a disagio perché ebbi la tua, mezzodì mi pare di essere meno sola. Mi raccomandi di essere meno depressa, ma la tua lettera non denota un tono più alto del mio stato d'animo. Anch'io ebbi notizie orribili del campo della guerra, macelli che fanno inorridire, senza avanzarsi neppure di pochi metri e per giunta, senza che si sappia su qual fronte. Si dice che gli austriaci invasero il territorio per più di 10 km. Ciò forse spiegherebbe un gran movimento militare, la chiusura delle accettazioni di merci per tutta l'Italia e la riduzione dei treni passeggeri dal 12 al 16 corrente. Tu dici che è una viltà di tacere su tutti questi massacri criminosi ed orribili. Sì, lo sarebbe tale se il parlarne ad alta voce potesse salvare, non dico tante, ma forse una sola delle giovani vittime. Può sanguinare il cuore se non appunto da parere che voglia dare le dimissioni e si fermi di stanchezza da un momento all'altro. Ma non è nelle forze dei singoli di poter spostare le sorti dei paesi belligeranti neppur di un millimetro. Chi salverà il mondo dalla catastrofe finale? Non credo più neppure in una reazione di popolo, salvo che abbia imprevisto a scoppiare una comune di Parigi internazionale. Che ci sarebbero i tedeschi? Ma sono tutti sogni dolorosi, determinati da quell'incubo continuo che grava sull'animo giorno e notte. I giornali mi fanno schifo, tanto sono falsi e bugiardi. Ora sono più occupati delle famose mene giolittiane, in quel che non si occupano delle guerre. E poi sono stupidi e di un demagogismo rivoltante. Ciao, caro mio Filippotto, ti bacio con tenerezza e arrivederci fra pochi giorni. Come t'aspetto, tua Anna. Milano, 20 marzo 1916, ore 15:30. Mio carissimo, la tua elevata e nobile invocazione alla pace ha potuto commuovere al di fuori anche del desiderio di farla ai democratici e riformisti. Del resto, come ti dissi già, non è il successo parlamentare che mi rallegra, ma di vederti tornato ai tuoi bei tempi, quando con fede e vigore sostenevi le tue, le vostre, anzi le nostre battaglie per l'avvenire. È questo che mi dà gioia maggiore, perché mi pare di sentire certe vibrazioni d'animo che hanno qualche cosa della giovinezza, sebbene non sono che ritorni di bellissimi tramonti di primavera. C'è il tramonto, è vero, ma la sua bellezza affascinatrice sta però nella primavera. Spero che domani sera sarai di ritorno, ma capisco che la speranza è determinata dal desiderio e dall'autoinganno di voler illudermi. Non insisto che tu pianti tutto e tu venga 24 o 48 ore prima. Se questo breve anticipo dovesse poi cagionarti rimorsi di coscienza e renderti malcontento di te stesso, Acconsentirei piuttosto ad un ritardo anche maggiore, pur di rivederti contento, sereno e di buon umore. Travis venne più a darmi un breve salutino, perché fu aspettato nel suo studio, ma mi promise di tornare stasera o domani per raccontarmi tante cose. Fu lietissimo del tuo riuscitissimo discorso. Persino nel popolo e nel lavoro lo qualificano ottimo. Sono malcontenti il Secolo ed il Corriere e Purciosa. Pontremoli e Torre dopo tanto sudare ed il fiasco per avere un governo nazionale, da te preso discretamente in giro, certo non potevano farti grandi complimenti. Ciao mio carissimo, tanti tantissimi baci di tutto cuore e mille tenerezze, tua Anna. A Filippo Turati, Milano, 17 marzo 1917, ore 16:30. Mio carissimo, attendo la tua di ieri, se arriverà con questa distribuzione, per capire qualche cosa dell'atteggiamento del gruppo alla seduta di ieri. Probabilmente l'ostilità contro Sonnino, contro la sua lettura dei ritagli dei giornali, contro la sua politica sordomuta avranno velato qualsiasi considerazione che avrebbe potuto suggerire un contegno diverso. Se non altro per evitare il pericolo di passare per simpatizzanti coi Sturmer, Protopopov e i vari Kurloff, che il neutralismo abbia da rendere ciechi ad un tal punto da non vedere, non scorgere neppure con l'intuito che in Russia in questo momento si svolge il più gran dramma della guerra attuale, che vi sia l'inizio di una riscossa contro oppressori secolari, se il neutralismo conduce a questa ottusità mentale. Non avrebbe più neppure l'attenuante di agire in nome dei grandi idealistici principi dell'umanità. Se avessero soltanto letto gli articoli del Gaida, e ti raccomando quelli di ieri e di oggi nella stampa, avrebbero certo sentito che la rivoluzione russa si preparava di lunga mano, che vi si svolgevano avvenimenti di una somiglianza e analogia sorprendenti di quanto si è visto in Francia alla fine del secolo XVIII. La Russia è rimasta di fronte al resto d'Europa indietro di un secolo. La stessa rivoluzione si svolge come fu la rivoluzione dell'89. Il primo atto è la presa della Bastiglia rossa, che è la fortezza di Pietro e Paolo. Si aprono le celle ai detenuti politici e vi si rinchiudono poliziotti e gendarmi. Si arresta il metropolita e lo si porta attraverso Pietrogrado alla Duma. Si incendiano tutti i depositi di polizia e tutti i tribunali perché non rimanga traccia della famosa terza sezione di spionaggio e dei dossier dei perseguitati e dei condannati politici. Infine, Kerensky, socialista agrario, è assunto al governo per eseguire l'amnistia generale per fare le elezioni col suffragio universale. Non si può prevedere che sviluppo rivoluzionario ulteriore potrà avere questo fatto mondiale della Russia. Vi saranno probabilmente lunghe convulsioni, controrivoluzioni, ma la rivoluzione è in cammino e non si arresta più. Ecco la tua. Mi spiega poco o niente, ma sono contenta perché mi sembri più sereno. Non mi ricordo quel che ti abbia scritto mercoledì. Certo, furono chiacchiere e nulla di importante. Il tempo è bello e speriamo continui così senza riservarci altre sorprese. Ti bacio con tenerezza e comincio ad aspettarti, tua Anna. Milano, 18 marzo 1917, ore 15:30. E così, mio caro, vi siete persuasi che la rivoluzione russa è una vera rivoluzione politica in grande stile, non una rivolta di fame sfruttata dai guerrafondai. Non so che cosa abbia detto Bentini. Vidi un piccolo accenno alla Russia nei resoconti ristrettissimi della Stefani, da cui si può capire ben poco. Quel però che rimane è che il Partito Socialista Italiano, sempre per paura di ledere la sua verginità neutralistica, non ha avuto neppure lo slancio intuitivo di mandare un saluto di solidarietà col proletariato russo. In realtà è la sua rivoluzione, con la quale dovete contare il governo provvisorio. Il manifesto programma fu evidentemente compilato insieme con i rappresentanti degli operai, che si trattennero in trattative col governo provvisorio tutta una notte sino alle 5 del mattino. Il risultato fu un programma rivoluzionario di governo di indirizzo democratico che supera nello spirito i regimi democratici dell'Europa occidentale. L'indipendenza della Finlandia è iniziata con l'inizio di Rodice, vecchio liberale, democratico, lottatore, coraggioso della Duma, e con la carcerazione immediata del governatore e del comandante dell'esercito a Helsingfors, concessione di tutti i diritti a tutti i cittadini senza distinzione di nazionalità e di religioni, libertà di stampa, di parola, di riunioni, di organizzazione e di sciopero. Insomma, pare un sogno. Si verrà presto alla pace, sebbene non è da illudersi che si possa evitare altri 2 o 3 mesi di un urto violento. E la Germania? Ora i socialisti non potranno più dire che si difendono dalla barbara Russia. È È possibile che vengano toccati dal contagio rivoluzionario? Ma se la ventata rivoluzionaria del 48 lasciò incolume quasi l'unione dei paesi europei che fu la Germania, potrà l'urto maggiore di questa terribile guerra smuoverla un po'? Speriamo. Allora sì che la guerra sarebbe finita e si potrebbe sperare in una pace e nella fine della guerra, di tutte le guerre. Oggi non ebbi il tuo salutino, ma lo prevedevo dopo aver visto la tarda ora della levata della seduta. Avete potuto almeno trovare da mangiare? Comincio già ad aspettarti. Cerca di sbrigare presto le tue faccende per non rubarmi 3-4 giorni per fare i pacchi e girare nei ministeri. Tanti baci e molta tenerezza, sebbene tu non abbia capito un H della rivoluzione russa. Tua Anna. A Filippo Turati, 10 agosto 1919, ore 18. Caro mio tesoro, che cosa avrei detto ricevendo il mio telegramma? Che sono una sprecona, non è vero? Se non fosse stato l'incidente di quella noiosissima turca con la sua mastodontica valigia e non ci fossimo lasciati senza aver scambiato un bacio, sarei stata dubitosa se fosse il caso per 5 parole o poco più buttare via più di lire 4. Ma quella partenza, senza il tuo bacio di buon augurio, senza un giornale in quella triste cabina, di cui faceva parte anche il conduttore, perciò proprio all'uscio col suo tavolino, tutto insieme pareva che avesse congiurato, dato quel pochino di superstizione che hanno i mezzo selvaggi, come lo sono io, di rendere il viaggio disastroso. Invece ci si adatta tutto, agli odori acuti di orribili profumi della turca, alla sporcizia e disordine tutto orientali, con la valigia che ostruisce il mio letto da non poter muoversi né scendere, e così bene o male sdraiata poteva starci. Ed era già tanto di guadagnato. Se quella mezzo pazza di una turca non mi avesse svegliata alle 5 del mattino chiamandomi per annunziarmi che è già giorno ed è l'ora di alzarsi, mi sarei riposata meglio. Le avrei dato dei pugni, ma per fortuna non ho più né pugni né forza per metterli in azione. Alla mattina però il conduttore mi diede una bellissima cabina, di quelli che scesero per via, e così sono arrivata tutta rasserenata e conciliata persino con la tremenda turca. Alla stazione trovai le ragazze che mi saltarono al collo come se fossero ragazzine di 10 anni e non finiscono ancora i racconti, che ne hanno sempre un sacco. Sono contenta di essere a casa nostra, tutta pulita e bella, rivedere tutte le nostre cose che parlano anch'esse facendomi lieta accoglienza. Non manca che il mio caro carissimo Vegiotti per sentirmi felice almeno una giornata. D'altronde il riordino delle cose, rimettere tutto sul binario è noioso in sé, ma piacevole. Perché lo faccio col pensiero a te? Perché trovi al tuo ritorno l'andamento solito della casa, cioè senza accorgerti che la casa esiste. A Filippo Turati, Milano, 11 settembre 1919, ore 18:30. Sono pur riuscita prima di uscire a divorare il tuo discorso. L'attesa era grande, le diffidenze non poche, data la scabrosità dell'argomento e la tua grande spregiudicatezza. Ebbene, dopo aver letto il discorso, ho sentito una tale emozione e in certi momenti fui anche commossa e compresa di vera ammirazione, che se tu fosti presente, ti avrei dato un bacio commosso, senza forse trovare una parola adeguata di quanto sentivo nell'animo. Purtroppo sei lontano e il bacio ti arriverà freddo e in gran ritardo. Tanto che lo slancio rimane paralizzato e tu non senti affatto tutte le vibrazioni di una grande soddisfazione morale. Il pensiero, l'anima del discorso ci sono comuni e in certi punti mi pareva un eco lontano delle nostre discussioni, ma è il modo, la forma, anche il garbo con cui furono espressi che ha dell'arte ed è tutto merito tuo. Ti bacio tanto. Ah, se fosse vero che ti lascino a riposare per un paio di anni, che gioia che sarebbe per me. Potremmo lavorare, leggere, pensare insieme e tu potresti dire col tuo ingegno ancora qualche cosa di buono e di originale. E poi ti dissi già quanto io sia addolorata del tuo facchinaggio morale e materiale e ora vedo che non esagero, ma intuisco che non si possa durare impunemente alla tua età un surmenage così faticoso di lavoro. Dato il tuo sistema nervoso, è sempre il sigaro e il caffè che ti sorreggono, ma è appunto l'abuso di questi tossici e poi di altri per dormire che danno i capogiri e l'incertezza della deambulazione e la stanchezza muscolare in genere, quindi anche del cuore. A Filippo Turati, Milano, 13 agosto 1921, ore 15. Mio carissimo Filippotto, il tuo pellegrinaggio sul corso Vittorio Emanuele 578 a Napoli mi ha fatto venire giù grossi lacrimoni di commozione. Ciò di cui certo non ti veniva neppur lontanamente il sospetto che la tua minuta descrizione avrebbe provocato tante dolci emozioni. La mia vera vita cominciò dal nostro incontro e forse è per questo che non ci sentiamo ancora tanto vecchi. Chissà se mai ci ritorneremo ancora insieme per risalire agli albori della nostra vita, la quale del resto meritava di essere vissuta sia dal lato sentimentale sia dal lato morale. Ti bacio e ti ringrazio della fedeltà alle sante memorie, a cui in genere, almeno nelle apparenze, tu ci tenga poco. Tanto più te ne sono grata, quanto meno me l'aspettavo. A Filippo Turati, Milano, 17 novembre 1922, ore 17. Mio carissimo, oggi chiederei a te una parola di conforto, tanto sono piena di disgusto, avvilita e quasi sgomenta dello spettro di rovine che si prospetta nell'avvenire. Tutto è estremamente pazzesco. Le scudisciate distribuite in pieno a tutta la Camera, il disprezzo del Parlamento, gli insulti ai deputati, pronti a scacciarlo con i loro voti di fiducia, la nessuna reazione dei sputacchiati e umiliati deputati, salvo un timido grido di Modigliani, non seguito da nessuno, è caduto nel vuoto in mezzo allo servilismo sbigottito di tutti. Il Presidente della Camera, custode della dignità del Parlamento, che non ebbe né uno scatto né una parola in difesa di chi egli rappresentava nella sua carica di eletto degli eletti. Oh, che schifo, che umiliazione, che desolazione di vivere o vegetare in un momento così torbido della storia del nostro povero paese. Povero mio Vegiotti, forse oggi ti toccherà il calice amaro di dover parlare e temo persino di guardarti, tanto mi pare tu sia abbuiato e nervoso. Non ti nascondo anche una certa inquietudine, perché c'è sempre da temere la spedizione punitiva, se, come dice qualche giornale, il solo grido di Modigliani ai momenti vi procurava un'invasione dei fascisti all'estrema. Dopo il colpo di stato buonapartista di Benito I, non gli rimarrà che di chiudere la Camera, appena ottenuto il bilancio provvisorio e i pieni poteri sino al giugno 1923. Non faccio delle ipotesi ottimiste sulle reazioni del paese. Il dittatore sarà in piedi finché gli piacerà e deputati e paesi cominceranno forse a reagire quando la disoccupazione comincerà a essere minacciosa. Milano, 25 novembre 1922, ore 17:30. Mio carissimo Filippotto, il tuo discorso è magnifico, ma è un discorso di un'opposizione assoluta, irriducibile, fiera, e come tale non poteva riuscire più felice né migliore di così, ma purtroppo la linea media vi manca. E non sono i pochi periodi del passo, ove accenni alle due anime del fascismo, che attenuino o possono attenuare l'attacco formidabile, pieno di sarcasmi, di ironia e di buona lega, e che ferisce in pieno il capobanda. Non discuto quanto l'opportunità di spingere le elezioni generali, non discuto di proposito, perché domani voglio ti giungano i miei più teneri auguri, non inquinati da questa bassa e noiosa politica del momento attuale. Preferisco rifugiarmi nei ricordi del 38 anni della nostra vita insieme, inseparabile, raramente turbata da profondi dissensi, e non posso che augurarti, anzi augurarci, che i pochi anni che ci rimangono a vivere ancora siano anni ancora di maggiore affetto e maggiore tenerezza. Se torno con la mente a tutti gli anni, e sono molti, vissuti insieme, non so come esprimere la mia gratitudine al destino di averti incontrato nella mia vita, che già a 25 anni mi pareva finita non solo dal lato sentimentale, ma per tutto ciò che fu ragione del vivere sin dalla prima giovinezza. Se dovessi e potessi tornare indietro, non vorrei nulla cambiare, perché nonostante qualche incompatibilità morale, sono convinta che fra la bestia uomo il mio Filippo è quello che li supera incontestabilmente di molti cubiti e moralmente per ingegno. Ti auguro dunque, caro mio Vegiotti, che la tua salute abbia a conservarti serenità e l'equilibrio nervoso, auspici migliori di bontà e di saper godere quel poco che la vita può darci ancora. Ti bacio commossa, con vivissima tenerezza, con tutto il mio affetto di tanti anni, ma non invecchiato e inaridito, desiderosa solo di farti regalo della parte ancora migliore di me stessa, e che è la mia infinita devozione per te. Baci, auguri, fervidi voti, quanti ne vuoi, tua sempre, Anna. A Filippo Turati, Milano, giovedì 12 giugno 1924, ore 17. Dalle 11 stamattina sono sotto l'incubo Matteotti. Fu una tegola sulla testa di un tale colpo da rimanere sbalordita e mezzo scema. Verso mezzogiorno apparve la notizia sulla provincia di Brescia, riferita pressappoco come me la dicesti tu, che sul Corriere, secolo del pomeriggio, si parla appunto della strana scomparsa di Matteotti. Nesti, nella sua corrispondenza da Roma di fronte del Viminale ieri sera, commentando ancora il famoso discorso di sabato di Mussolini, accenna al pericolo Matteotti, principale responsabile col suo discorso diffamatorio e provocatorio degli incidenti della settimana scorsa. E non basta la funzione sua diffamatoria all'interno, ma lo è anche all'estero, avendo pubblicato sulla rivista inglese The Statist un articolo dove dice male del fascismo perché il suo governo non ha risolto alcuni dei problemi vitali della vita economica e sociale italiana. leggendo questa prosa astiosa contro il pericolo Matteotti, mi fece l'impressione che si voglia preparare un nuovo fattaccio durante la discussione sul bilancio provvisorio quando verrà il turno Matteotti. E per quanto abituati che siamo a qualunque delle peggiori delle ipotesi, a certi atti però di medioevo, non ci si pensa se non quando accadono. L'unico filo di speranza è ancora l'ipotesi che Matteotti, monello com'è, ci abbia fatto a tutti un tiro birbone di un grande spavento che oggi, visto che la notizia si diffuse a mezzo dei giornali, si faccia vivo e fresco come una rosa. Si meriterebbe una violenta tirata d'orecchie e poi l'accoglienza festosa che si fa al ritorno del figlio al prodigo. Ma è un magro conforto, un sottilissimo filo di speranza. Ad un semplice sequestro di persona non ci credo, perché è nella natura della logica della violenza di sopprimerne le tracce, e di sequestro non sarebbe che la soppressione della persona. Non ti dico con che animo angosciato penso a lui, a voi altri, alla stessa moglie, la quale chissà come se la caverà da un colpo mortale, come sarebbe la scomparsa per sempre del padre dei suoi figliuoli. Tutt'oggi è una processione di gente per sentire notizie, telefonate, continue, e l'ultima fu di uno zio di Matteotti, fratello di sua madre, ora malatissima a Rovigo. Gli disse di telefonarmi dopo le 18, forse potrò avere qualche notizia dalla giustizia. Milano, 27 giugno 1924, ore 16:15. Mio carissimo, che giornata di emozioni, commozioni e di rinnovato strazio. Le mani tremano e gli occhi sono velati. Alla prima ora del mattino, lacrime sul tuo commovente ed emozionante articolo sulla giustizia. Alle 10, l'indimenticabile omaggio di popolo alla memoria del martire in piazza del Duomo ed ora in galleria. Mentre suonavano le ore 10, tutti i presenti al rito religioso si levarono i cappelli, le donne coi fazzoletti agli occhi, i tram fermi, altrettanto le carrozze d'autobus. Vidi ufficiali in divisa che fermavano i ciclisti in corsa, obbligandoli a scendere dal veicolo, scoprirsi e riprendere la corsa quando si saranno mossi i tram. Due manigoldi vollero obbligare all'arco della galleria un brumista di proseguire, ma egli si scoprì e non volle obbedire all'ordine dei clienti. Il pubblico approvava il brumista e i manigoldi emisero il grido di «Viva Mussolini!». Allora, nella piazza silenziosa, ma stipata di gente, si udì un grido che echeggiò e che echeggiò formidabile. «Copet!». Le notizie alla Camera del Lavoro sono imponenti e commoventi. Dappertutto una sospensione del lavoro in pieno raccoglimento e silenzio. Hai ragione, il martire è vivo e adesso è più forte che mai a spingere il popolo di tutte le classi, di tutti i ceti al risveglio, che certo non si assopirà, ma rimarrà vigile sino alla caduta dell'unico, già, frusto e arcifrusto sipario. Più tardi arrivò la tua lettera. Quel tuo grande e insuperabile discorso, dove il pensiero forte, il dolore non piagnucoloso ma profondo, una sintesi scultorea della nemesi della storia e la fine commovente fino alle lacrime, è veramente più di un discorso funebre al fascismo ed un inno di risurrezione di tutta una nazione, povero mio Veggiotti! Quanto sia ancora una mente, dai nervi vibranti e l'arte di far vibrare le anime di chissà quanta gente. No, no, non puoi considerarti una vecchia carcassa già votata alla morte, perché non altro servizio potresti rendere al popolo affranto. No, tesoro caro, devi vivere e con te, per quanto io sia morta davvero. Mi pare ancora di far parte alla vita anch'io, povero Matteotti. Se potesse vedere il miracolo ottenuto dal suo martirio, sarebbe contento anche lui, non sentendo più le sofferenze fisiche del suo corpo martirizzato. Il discorso di sforza è una mazzata unica da principio fino alla fine sulla testa del capobanda. È rude, è formidabile, come un giustiziere. Chissà che ripercussione avrà all'estero. Fine.